TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aveva 45 anni ed era originario di Maniago, l'alpinista morto sul Monte Bianco, travolto dai massi. L'incidente è avvenuto durante un corso organizzato dal Collegio Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia. Da oggi nei distributori la benzina dovrebbe essere meno cara di 21 centesimi al litro a seguito del taglio delle accise deciso dal governo, il punto a Udine dove cominciano a vedersi le code. I redditi delle famiglie del Friuli Venezia Giulia sono cresciuti negli ultimi anni di quasi il 3%, ma il potere d'acquisto cala a causa degli aumenti. Alle ultime battute la campagna referendaria in vista del voto di domenica e lunedì sulla riforma della giustizia, diversi gli appuntamenti a favore del sì e del no previsti in regione. I musulmani festeggiano oggi la fine del Ramadan, una delle due feste islamiche più importanti in regione. A partire dall'alba diverse le riunioni di preghiera. Siamo andati a Monfalcone. Il 20 marzo del 1994 moriva ucciso con Ilaria Alpi a Mogadiscio il telecineoperatore triestino Miran Hrovatin, il ricordo della moglie Patrizia. Dalla chiesa greco-ortodossa e dalla prefettura di Trieste alla Fondazione Friuli di Udine sono 18 i siti proposti quest'anno dalle giornate FAI di primavera. Si trovano in 8 comuni della regione. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. La tragedia sul Monte Bianco durante un corso organizzato dal Collegio Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia. Un alpinista è morto e un altro è gravemente ferito. La vittima aveva 45 anni ed era originario di Maniago. Gli mancavano pochi mesi per raggiungere il suo sogno, diventare guida alpina. Dopo una carriera nel settore navale, esperienze in tutto il mondo con la Saipem, aveva lasciato per stare vicino al figlio piccolo e dedicarsi alla sua passione, la montagna. Carlo Chiodini, 45 anni, originario di Maniago, ha perso la vita ieri sul versante francese del Monte Bianco, dove stava partecipando a un corso organizzato dal Collegio Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia. Viveva tra il Lazio con la compagna, anche lei ingegnera navale, e Pieve di Cadore, di dove sono originari la madre Carolina e i nonni materni. Da loro ha ereditato la passione per la montagna. A Maniago i genitori sono molto conosciuti. Il sindaco Umberto Scarabello. È una famiglia, quella di provenienza, che è molto molto conosciuta a Maniago, sia per l'attività commerciale che per tantissimi anni ha esercitato la mamma qui a Maniago, ma anche per il papà, che si era poi molto ben inserito nella nostra comunità e conosciuto molto bene anche lui. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia, esprimiamo loro il nostro cordoglio e le più nostre, più sentite condoglianze in questo momento veramente tragico e di grande dolore. Una vicina di casa. Siamo amici da sempre. Lui è ingegnere e era sempre via. E ogni tanto quando veniva andava in montagna da loro, che hanno una seconda casa. Carlo aveva frequentato il Torricelli di Maniago, poi l'Università Navale a Trieste, da ultimo un master alla Bocconi. Il padre Giancarlo, ex dirigente Zanussi Benetton, ricorda il figlio come esempio per i valori profondi. Non lo guidavano il denaro, il successo economico ad ogni costo, ci dice, ma una solida etica e grande sensibilità. Lui ha rinunciato al successo economico perché i suoi valori non erano il denaro, anche il denaro, perché ha fatto un carrierone, ma era la sua etica, la sua sensibilità. Era una persona onestissima, insensibilissima. Maniago, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, questa mattina tra le 9 e le 11 l'autostrada 34 è stata chiusa nel tratto tra Gradisca e Villesse a causa di un incidente avvenuto tra due auto che viaggiavano in direzione Gorizia. Due feriti coinvolti nell'urto, di cui uno è lì trasportato in ospedale, che non sarebbero però in pericolo di vita. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell'accaduto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Gorizia, anche il personale medico del 118. Benzina meno cara di 21 centesimi al litro a seguito del taglio delle accise deciso dal governo per cercare di contenere gli aumenti dovuti alla guerra in Medio Oriente. Siamo andati a Udine a vedere se la riduzione è effettivamente entrata in vigore. In un distributore dell'Interland udinese si rivedono le code di auto alla cassa per lo sconto regionale benzina. Primi effetti dell'intervento del decreto legge governativo, con riduzione prevista di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e 12 centesimi al chilo per GPL. Alfio Bacinello, titolare di un distributore. Oggi si vede già una differenza, la gente arriva più volentieri. Il gasolio in tangenziale è tornato sotto la soglia psicologica dei 2 euro. È un po', diciamo, un simbolo che dà un riferimento a aver voglia di fermarsi. Speriamo bene, dai, perché le vendite purtroppo hanno preso una bella botta. Adesso vediamo come si evolve la situazione sul fatto che noi avevamo una giacenza interna da prima e stiamo vendendo sotto costo. Dobbiamo capire come fare poi a recuperare quello che stiamo vendendo sotto costo praticamente. L'artigiano, che col suo camion non può usufruire dello sconto regionale, ammette che è qui per caso. Perché sono quasi senza, altrimenti sarei andato in Slovenia. I distributori hanno dovuto attendere l'aggiornamento dei listini dalle compagnie per poter cambiare il prezzo. Alcuni sono arrivati solo nel tardo pomeriggio di ieri. In città, ma anche fuori Udine, accanto alla parola diesel, si rivedono le cifre 1 e 8. Oggi approfitto così, faccio il pieno e non ci penso per un po'. Il prezzo è sempre alto, c'è poco da fare. In queste ultime 2 settimane come ha fatto lei? No, la macchina non la uso tanto, quindi insomma sono riuscito a tenere duro con il pieno vecchio. Io ieri sono partita da Udine per fare il pieno a Vencò e ho fatto il minimo e là quasi tutti rimanevano fregati. I controlli sull'invio delle comunicazioni dei prezzi al garante del Ministero delle Imprese del Made in Italy sono ancora in corso e finora, almeno nella provincia di Udine, non hanno rilevato anomalie. Da oggi la Guardia di Finanza si muoverà su segnalazione dello stesso garante per verificare eventuali discrepanze tra il prezzo comunicato dalla compagnia petrolifera e i costi giornalieri alla pompa. Adesso ne approfitto per rifare il pieno, che non si sa mai, insomma. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra il 2021 e il 2023 il reddito disponibile delle famiglie italiane è cresciuto in tutte le province, almeno secondo i dati Unioncamere elaborati dal Centro Sud Italia Carne, oggi aggiornati. Vediamo le novità in un momento in cui il potere d'acquisto di chi vive del proprio lavoro si è notevolmente ridotto. Il reddito disponibile delle famiglie del Friuli Venezia Giulia cresce un po' di più rispetto al complesso del Nord Italia, anche se leggermente meno della media nazionale. È quanto emerge da un'analisi di Unioncamere condotta su dati Istat relativi al 2024. Secondo il report, infatti, in regione, rispetto al 2023, il reddito delle famiglie è salito del 2,89% contro una media che nel nord del paese è stata del 2,7% e che a livello italiano si è attestata al 2,98%. La crescita maggiore in percentuale si è registrata a Trieste con un più 3,28%, a seguire Gorizia con il più 3,19%, Udine con il più 3,07% e Pordenone con il più 2,19%. Quanto ai numeri assoluti, in Friuli Venezia Giulia il reddito pro capite è salito del 2,93% da 24.076 a 24.792 euro a testa. Guardando ai dati provinciali, Trieste si piazza al 12° posto in Italia, lo stesso del 2023, con 26.303 euro ciascuno. Pordenone guadagna una posizione e sale al 19° posto con 25.315 euro a testa. Udine, con 24.760 euro, perde invece 3 posti e si piazza 30°, Gorizia infine perde 2 posti ed è 65° in graduatoria con 21.025 euro a testa. Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultimo giorno di campagna elettorale in vista del referendum sulla riforma della giustizia, vediamo quali sono i principali appuntamenti in regione. Ultime ore per chiedere un sì o un no e ultime ore di campagna per convincere gli indecisi per il referendum di domenica e lunedì sul tema giustizia. Partiti politici e movimenti chiedono di andare alle urne sostenendo le proprie ragioni. Per i sì a Trieste in mattinata davanti al comune si sono trovati i 4 segretari provinciali dei partiti di maggioranza. Nel Friuli occidentale, per la chiusura della campagna referendaria, saranno invece protagonisti nel tardo pomeriggio il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il fratello europarlamentare Alessandro, appuntamento in fiera Pordenone. Non alle 18.30 saranno presenti anche l'avvocato Enrico Sarcinelli, che prenderà la parola a nome del comitato Si Riforma, e il sindaco di Pordenone Alessandro Basso. Per il no, 2 gli appuntamenti principali. Alle 18 a Udine, all'ingresso della Galleria Bardelli, il Partito Democratico Provinciale chiude la campagna referendaria con la deputata Deborah Serracchiani, il segretario Dem Luca Braidotti e altri esponenti del partito. Brindisi per dire no alla riforma anche a Pasian di Prato. Sempre tra i contrari alla riforma, a Trieste, evento conclusivo dalle 16 alle 19 in piazza della Borsa, mentre l'ex magistrato Luigi Dainotti interverrà alle 15 in piazza della Libertà. A Pordenone, alle 17.30, in piazza 20 settembre, le ragioni del no con il comitato locale degli avvocati. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del meteo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 13 gradi e mezzo, Udine 14, Gorizia 14 e mezzo, Pordenone 15, Sappada 6, Tarvisio 8, Forni di Sopra 9, Tolmezzo 12, Monte Lussari e Monte Zoncolan meno 1, Grado 11 e mezzo, Lignano 15. Per le previsioni del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Sergio Nordio. Le condizioni del tempo sulla nostra regione, dopo un po' di stabilità, tornano a cambiare. Nella giornata di sabato si avvicina una modesta depressione che porterà un aumento della nuvolosità, forse non proprio nelle prime ore del mattino, ma nel corso della giornata. Dal pomeriggio e in serata sono probabili delle piogge sparse, delle deboli nevicate in montagna a partire dagli 800-1000 metri. Sul pianure costa la probabilità di piogge sarà molto bassa. Per quanto riguarda domenica, condizioni ancora di variabilità, anche se tutto sommato dovremmo vedere anche un po' di sole, insomma delle schiarite possibili, delle piogge sparse pomeridiane in montagna, ma anche queste con bassa probabilità. Sulla costa tornerà a soffiare bora moderata a partire dalla sera di sabato fino a, per gran parte della giornata di domenica e anche per lunedì. La prossima settimana inizia con tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso, ancora bora moderata che andrà attenuandosi poi nella giornata di martedì. È probabile poi un cambiamento nella seconda parte della prossima settimana, ma sono previsioni che andranno aggiornate. Cosa possiamo dire per le temperature? Le temperature sono scese un po', ma rientriamo nella media del periodo. Abbiamo avuto nelle settimane precedenti valori molto elevati, al di sopra della media stagionale. Adesso siamo un po' rientrati, in montagna si va ancora sotto zero di qualche grado durante la notte, però tutto sommato non sono valori particolarmente diversi da quelli che dovremmo aspettarci. I musulmani festeggiano oggi la fine del Ramadan, una delle due feste islamiche più importanti, a Udine, al Cittafiera, a Pordenone, nella moschea di Viale della Comina e in Fiera, a Trieste, nel campo sportivo di Via Felluga. Sono diverse le sedi in cui è stata organizzata la preghiera. Noi siamo andati a Monfalcone, dove la comunità islamica si è riunita in tre diverse sedi. Inizia col sorgere del sole, tutti rivolti a Oriente, il primo dei tre turni di preghiera della comunità islamica isontina, una delle più cospicue del paese. In migliaia, quasi tutti uomini, si sono riuniti tra il campetto da calcio della Marcelliana a Panzano e le stalle rosse di Staranzano per celebrare la fine del Ramadan, spazi di proprietà della chiesa locale che ha deciso di ospitare le preghiere dei fedeli musulmani durante il mese sacro dell'Islam dopo la chiusura dei tre centri islamici decisi dal comune di Monfalcone. Moschee abusive li aveva definiti l'ex sindaca Anna Maria Cisint, oggi europarlamentare della Lega. E alla chiesa va il ringraziamento dei capi della comunità musulmana. Questa è un'occasione per iniziare un nuovo cammino di collaborazione, hanno detto. Rejaul Haq, presidente del Centro Culturale Islamico Baitus Sadat. I cattolici che hanno dato disponibilità è un grande onore per noi. Oggi è una giornata di festa, chiediamo che Allah aiuta a noi per trovare una soluzione, anche per una cosa per il futuro che cerchiamo di dialogare. La mente e le preghiere di molti sono rivolti a quanto sta accadendo in Medio Oriente, ma la guerra è un argomento di cui non si parla volentieri. Qui, dove i musulmani sono in massima parte bengalesi, il messaggio è piuttosto rivolto a una più proficua integrazione. Ali Poisal, vicepresidente del centro Baitus Salat. Preghiera non vuol dire solo preghiera spirituale, ma anche la preghiera, quella civile, di volersi bene a questo paese, integrarsi, imparare la lingua italiana, di contribuire in questo paese che ci ha dato di tante cose che se ci trovavamo nel nostro paese di origine non lo potevamo avere. Perciò va ringraziato il paese e va contribuito in modo che questo paese si sviluppi, cresca questo paese. Monfalcone, Lorenzo Gherlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia. A 32 anni dall'omicidio a Mogadiscio, il telecineoperatore Miran Hrovatin è stato ricordato da ordine dei giornalisti, Asso Stampa, Friuli Venezia Giulia, Articolo 21 e Fondazione Lucchetta Ota ad Angelo Hrovatin, che hanno invitato a portare un fiore al giardino di Barcola, lui intitolato. Al ricordo si è accompagnato l'appello per la verità e la giustizia che in tutti questi anni diverse associazioni non hanno mai smesso di rilanciare, dato che dopo 32 anni ancora non si conoscono gli esecutori materiali e i mandanti dell'attentato. Ma sentiamo il ricordo di Miran Hrovatin nel servizio e nelle parole della moglie Patrizia. Il 20 marzo 1994 il cineoperatore triestino Miran Hrovatin si trova in Somalia insieme alla giornalista Ilaria Alpi per effettuare dei servizi per il TG3. È l'ultimo giorno di lavoro prima del rientro a casa, ma un agguato tragico gli nega quel rientro. Io mi ricordo una telefonata serena di una persona che aveva svolto il suo lavoro, come sempre, di una persona che ha amato l'Africa, gli è piaciuta, ma che non vedeva l'ora di tornare a casa, di riabbracciare la sua famiglia. Quindi è stato un momento di gioia fra me e lui, perché il giorno dopo lui sarebbe partito, sarebbe arrivato a Trieste. E invece quel giorno non c'è mai stato. Com'era Miran come cineoperatore? Miran era un viaggiatore, era una persona curiosa, un grande professionista e direi anche un poeta della ripresa, perché riusciva a cogliere l'attimo sensibile nelle situazioni, anche nelle situazioni più tragiche. Aveva questa vena di dolcezza, di attenzione per le persone, che è molto difficile da trovare normalmente. Il figlio Jan aveva pochi anni, eppure ha ereditato la gioia di vivere del suo papà. Io vivo in Messico, dopo un percorso di studi all'Accademia Diplomatica di Vienna. Io vedo Miran, vedo la libertà di Miran, la dolcezza di Miran, la grande umanità di Miran. Io vorrei ricordare Miran come marito e come padre, la sua grande umanità, la sua grande onestà e questa presenza. C'è sempre stato come marito, c'è sempre stato come padre. È stato un poeta delle riprese, un uomo che amava il suo lavoro e lo faceva con grande, grande attenzione ed onestà. Biagio Ingenito, TGR, Friuli Venezia Giulia. ITS, l'Accademia della Moda di Trieste, ha presentato i finalisti della sua competizione annuale. La famiglia di ITS si allarga, talento e creatività continuano ad essere la stella polare del contest, che ha scelto i suoi nuovi 10 finalisti, designer tra i 22 e i 33 anni, selezionati tra oltre 700 candidature provenienti da tutto il mondo. Darius Béchart, Tijan Tal e Steven Chevalier, Francia, Yi Ding e Wen Jiwu, Cina, Jamie O'Grady e William Palmer, Regno Unito, Stan Peters e Chloe Reners, Belgio, Anna Maria Vescovi, Stati Uniti, vengono presentati alla fine della loro residenza creativa sullo sfondo del tema dell'edizione Rise and Shine, un invito a prendere coscienza del proprio pensiero progettuale e a dare il meglio di sé in un momento storico che spinge verso la chiusura e l'uniformità. Barbara Franchine, presidente ITS Academy. Cerchiamo sempre di dare un quadro più completo possibile, cioè rappresentare le varie declinazioni della creatività, per cui dei progetti che possono essere più vicini a prodotto e altri progetti che sono proprio più estremamente creativi, magari tendenti all'alta moda. Per cui c'è una diversità, ecco, puntiamo sempre alla diversità. Ad accompagnare ITS nei suoi 24 anni di vita, Renzo Rosso, secondo il quale i giovani designer devono portare idee nuove e il coraggio di rompere gli schemi. Amo la creatività, ho sempre pensato che la creatività è il vero motivo della ragione del successo delle aziende, perché tu con la creatività puoi costruire un'azienda, puoi costruire un brand. Quindi quando Barbara mi ha fatto questa proposta l'ho condivisa subito, sono contento di aver fatto un po' di anni insieme, mi diceva che l'anno prossimo saranno addirittura 25. Il contest si intreccia con la presentazione della mostra Exposure, quando il mondo ti guarda, da Harry Styles a Lady Gaga, un'immersione nella visione di Tom Erebout sulla nascita dell'immagine pubblica delle icone contemporanee. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In regione sono 18 quest'anno i luoghi visitabili per le giornate di primavera del Fondo Ambiente Italiano FAI. Entrare in luoghi quasi sempre tenuti chiusi e poi illuminarli con una luce collettiva che permette di conoscere cose nuove oppure di cambiare la percezione di quelle già note. È con questa immagine che la presidente del FAI regionale, Beatrice Duranti, descrive le giornate del FAI di primavera. È proprio una questione di porci nei confronti dell'ambiente che ci circonda in modo diverso, ecco. E quindi attraverso appunto l'illuminazione c'è una sensibilizzazione del cittadino, della persona nei confronti del territorio dove abita o dove non abita. E attraverso quest'opera di sensibilizzazione si cerca di indurre il visitatore all'elargizione di un contributo spontaneo o meglio ancora all'iscrizione. Un sostegno economico che contribuisce alla manutenzione e alla conservazione del patrimonio culturale, con in cambio alcuni vantaggi come accessi preferenziali o ingressi esclusivi. Quest'anno in regione aderiscono 8 comuni e nell'elenco ci sono ben 18 siti particolari. Cominciamo con il capoluogo Trieste, dove sarà aperta la chiesa greco-ortodossa, ahimè sold out perché appunto per gli iscritti sono già andate tutte le prenotazioni, il Palazzo della Prefettura, Palazzo Vivante, Prefettura anche a Udine, dove saranno aperti anche la sede del Rettorato, la sede della Fondazione Friuli e il CISM. Ma le aperture sono anche in tanti altri luoghi della regione e si possono trovare tutte sul sito della Fondazione Trieste. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 33esima edizione per l'iniziativa Uova di Pasqua dell'AIL, promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue e la ricerca. Consiste nell'offrire un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo AIL a chi verserà un contributo minimo. I banchetti, presenti in 5.000 piazze italiane, saranno accessibili da oggi a domenica 22 marzo. La mostra Scambio Internazionale di Conchiglie, Minerali e Fossili da tutto il mondo, Nesi Shells, giunta alla 10ª edizione, in programma a Muggia al Montedoro Shopping Center da oggi fino a domenica 22 marzo. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia, in regia per la parte tecnica Carlo Morello, ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.